idea sul feticismo visuale, e io per un motivo che veramente non capivo molto bene, anziché introdurvi subito il feticismo, ho introdotto la metropoli comunicazionale, che probabilmente va bene, normalmente io la introduco al secondo o al terzo punto, però non so, ho avuto come la sensazione che magari dandovi almeno non tutto il contesto, ma quello che è in parte, in gran parte il contesto all'interno del quale si produce il feticismo visuale, forse vi era più chiaro, più utile. Adesso vediamo se funziona. Diciamo, questa è la lezione che vi introdurrà direttamente alla questione del feticismo. Già, metto solo così. Però se c'è qualcuno che risolve il problema del computer e non si vede qua, è benvenuto, se no non lo facciamo così. Allora, ci siete, insomma, l'altra volta vi ho mostrato tutta una serie di elementi che configurano una nuova, un nuovo contesto urbano, che per me è la metropoli comunicazionale, all'interno della quale non è più tanto la fabbrica, la produzione, l'industria, il centro che dà il senso a tutta la società. Tra l'altro, a mio avviso, anche il concetto stesso di società è un concetto storicamente determinato, nasce grosso modo alla fine del Settecento e inizio dell'Ottocento, e è strettamente connaturato sia appunto all'era industriale e anche al concetto di Stato e di Stato-nazione. Abbiamo visto come per tentare di penetrare all'interno di questa metropoli comunicazionale una nuova architettura. L'architettura non è un contesto neutro, naturalmente, anche qui dentro, ma è un tipo di configurazione attraverso la quale cambia la città, da città in metropoli, metropoli comunicazionale. Per cui uno dei consigli, delle immagini che vi avevo fatto vedere, magari vedremo anche in futuro, hanno questo significato, è che c'è una parte dell'architettura che da tempo sta configurando appunto una nuova metropoli. Quindi il consiglio che vi do è che studiare comunicazione non significa solamente studiare i media, i giornali o chissà che cosa, per me è fondamentale intendere la nuova architettura e anche l'arte contemporanea, perché architettura, arte contemporanea, entrambi contemporanei, la musica, riescono a dare il senso a volte in anticipo rispetto alle scienze sociali. Questa è stata grosso modo la premessa della volta scorsa, non so se avete domande su questo. Se non avete domande, io passerei a quello che è l'introduzione al feticismo visuale. Va bene? Ci siete? Allora, vi darò alcuni concetti, alcune parole che per me sono significative. La prima di queste parole per me è lo stupore, che lo vedremo subito dopo. Il concetto di stupore per me è molto significativo per affrontare la comunicazione contemporanea che in particolare diffonde il feticismo. Dopo chiariremo, questo concetto. Vi mostro come è organizzato il mio itinerario, che non è esattamente così, diciamo, se questa è la mia introduzione, sono le trovi comunicazionali, i corpi, panorama e la merce digitale. Però probabilmente l'immagine che, ecco, che mi dà un po' il senso del programma, lo voglio presentare adesso in modo che avete, spero, piano il percorso che faremo. È una, come già ho detto, una composizione per cui immagini e suoni, e oggi magari abbiamo portato anche una musica, vediamo se riusciamo a sentirla. La parte che svilupperemo adesso sarà sul feticismo, e questa parte è collegata con la seconda parte, che è lo stupore della praticità. La terza parte, la metropoli comunicazionale, che è un po' la seconda, diciamo, però già introdotta, magari ne torneremo sopra, però in qualche modo già vi ho introdotto la volta scorsa la metropoli comunicazionale. Poi ci sarà un quarto, terzo, quarto capitolo sul concetto di bodyscape e body corpus, il corpo come panorama e bodyscape, questa parola che in inglese a volte riesce a dare il senso di alcuni concetti che in italiano è un po' più difficile. Landscape, conoscete, in inglese vuol dire appunto panorama in generale, è una parola che si può togliere la prima parte, land rimane scape, che ha una relazione con il guardare e con il panorama appunto. Io ho messo body scape, appunto, che è il corpo panoramico, il corpo panoramatico. Body corps è uno dei concetti chiari del fetichismo, lo vedo successivamente, ma insomma, grosso modo, per introdurre il body come corpo vivo, il corps come il corpo morto, e nel frattino c'è questo trans, e poi l'ottica. Il quinto capitolo è dedicato a Walter Benjamin e Adorno. Il titolo del libro, una stupida praticità, deriva proprio da una discussione tra questi due straordinari autori, che negli anni 30, un appassionato scambio epistolare, discutono quando l'Europa, siamo già durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'Europa è in fiamme, la Francia è stata conquistata dall'esercito nazista, Benjamin, che è di origine ebrea, anche se non è ebreo nel senso religioso, ma diventa ebreo, in quel momento, cioè qualche anno prima, Adorno, anche lui ebreo, decide di cambiare nome chiamandosi appunto Adorno, per nome di origine genovese, da parte della madre, il suo nome era Lisico, anche questo chiaramente determinato, razzializzato. Così. Adorno fugge negli Stati Uniti, cerca di convincere Benjamin anche lui di lasciare la Francia, che è diventata molto pericolosa. Benjamin però decide di rimanere a Parigi a fare il suo studio, lo studio su Parigi capitale del XIX secolo, su cui torneremo. Insomma, Benjamin è un grandissimo autore perché è riuscito già negli anni 30 a connettere quello che per me rimane il centro della riflessione della ricerca, cioè dire la ricerca sulla metropoli. Ha fatto tante ricerche su tante le prove, ma in particolare su Parigi, e la ricerca sulla comunicazione. Un suo saggio famosissimo, che se non l'avete studiato lo dovete studiare, si chiama L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, un saggio del 1936 in cui Benjamin anticipa moltissimi degli argomenti che saranno sempre più attuali, che vedremo appunto alla fine. Quindi Walter Benjamin, questa scambio epistolare appassionante tra questi due amici su questioni di fondo rispetto alle quali divergono totalmente, e l'amicizia secondo me è tale proprio quando c'è un'appassionata discussione su punti di vista differenti. Quindi apprendere a discutere, a mettere in discussione i propri punti di vista è veramente un atteggiamento, un posizionamento secondo me fondamentale. Credo, insomma, fermamente convinto, la musica che vorrei farvi ascoltare su questo, l'università è questo spazio in cui le opinioni sono sfidate, che probabilmente si possono cambiare, che forse in parte si devono cambiare. Infine, l'ultimo capitolo, che è molto breve, di questo corso, di questa parte del corso, sarà sul metafeticismo. Bene, questo è grosso modo lo schema, quindi torno un attimo indietro e per introdurre il concetto del feticismo vi introduco questa immagine che probabilmente già avete notato, che sta come una sorta di proiezione invasiva della prima immagine di questo PowerPoint. Allora, avete già alcuni concetti per me importanti per il feticismo. La prima, la biografia, una biografia etnografica. Questo vuol dire per me che un oggetto, una merce, una cosa, oggetto, merce, cosa, vedete, questi tre concetti già introducono l'altro concetto unificato che dà il titolo al libro di fatticità, quindi già una piccola introduzione. Il concetto di fatticità è un concetto a mio avviso molto interessante, che io veramente ho adorato appena l'ho visto, l'ho studiato in questo senso, perché fatticità appunto include la dimensione dell'oggetto, della cosa e della merce, che sono tre livelli differenti rispetto ai quali analizzeremo il feticismo. Quindi, diciamo, la biografia, l'elemento biografico che normalmente le scienze sociali applicano alle persone, no? La biografia è un metodo per studiare molti aspetti anche delle singole persone, anche a volte la ricerca biografica si basa proprio per andare a fondo su questa storia di vita di una singola persona, perché attraverso la storia di vita di questa singola persona emerge qualcosa di più, un po' più generale, un po' più. Ora, la biografia, ripeto, un metodo per fare ricerca non solamente sul soggetto, ma qualcosa di più generale, io la applico anche agli oggetti, alle cose e alle merci. Quindi la merce, in particolare vedremo le merci visuali, hanno una biografia, hanno una storia di vita, una sorta di nascita, un'adolescenza, un'età adulta, poi un progressivo invecchiamento, una morte e a volte, almeno per le merci, anche una resurrezione. Allora, rispetto alla dimensione della metropoli comunicazionale, come dicevo, questa per me è una merce visuale. A me piace definire, tentare di definire una banale pubblicità, che immagino voi abbiate visto, come merce visuale, cioè la dimensione visuale e comunicazionale aggiunge senso e valore a questo prodotto. E il tipo di comunicazione visuale che emette questo tipo di pubblicità attraverso l'orologio vi introduce, da me ha introdotto, è stato uno dei primi, non problemi, insomma, uno dei primi, delle prime immagini che mi ha fatto riflettere su alcune cose, alcuni concetti, alcune prospettive che stanno cambiando e che ci coinvolgono in ogni modo, non possiamo non esserne coinvolti. Allora, in questo senso, vedete, la distinzione tra il seno di donna e il cinturino è una distinzione che tende a sfumare, a dissolversi. È come se all'interno di una prospettiva di un nuovo feticismo la distinzione classica, moderna, tra corpo e merce, seno e orologio, e quindi tra organico il seno e inorganico il cinturino, questa distinzione diventasse sempre più inutile, non si dissolvesse. Ecco, il termine è, già da questa immagine si avverte una dissolvenza del dualismo organico-inorganico, si avverte una dissolvenza del dualismo classico tra organico e inorganico. Vedete? Il transito, il colore, sembra quasi più su, non so che non riesco a farlo funzionare bene, ma tra la pelle del cinturino e l'acciaio del seno, incrociando i termini, è qualcosa appunto che precisa chiaramente questo transito. Di più, non è casuale, è proprio il centro del seno assume il colore che è quello più vicino, è sempre un colore, diciamo, elettrico. Tuttavia è un tipo di colore che si avvicina al colore del seno. E ancora una volta è il centro dell'orologio, che è anche il centro del seno, stabilisce questa interconnessione tra il corpo della merce e il corpo del corpo. E allora il termine che io uso, che vi ho accennato prima, body corps, a mio avviso chiarisce questa immagine, perché se il body è il corpo vivo e quindi il seno, per quanto fotografato, esprime questa dimensione del corpo vivo, il corpse, che dovrebbe essere il corpo morto e che appunto dovrebbe essere il cinturino, questa distinzione, questo dualismo corpo vivo, corpo morto, sembra essere messo in crisi, ed è messo in crisi giustamente per me proprio da, vedete, dal trattino che mi piace lasciare, perché il trattino rappresenta il transito, trattino transito. È come se questa immagine, la biografia di questa immagine, affermasse un transito continuo tra il body come corpo vivo e il corpus come corpo morto. E questo trattino, che favorisce questo transitare costante tra questi due livelli, l'organico e l'inorganico, il corpo e la cosa, è il felicismo, è il felice. Quindi è possibile collocare esattamente nella forza, nel potere transitivo del trattino, il felice, la dimensione del felice, che andremo a introdurre. Cioè che all'interno di quella che per me è la crisi della razionalità, che da tempo insomma si afferma, i tentativi di elaborare nuove forme razionali, nuove logiche, che non siano appunto irrazionalistiche al contrario, ma che affermino una nuova espansione di nuove razionalità, si deve in qualche modo incrociare con la dimensione sensoriale. Per questo l'antologia che vi ho presentato è un'antologia del sentire, perché il sentire, a mio avviso, riesce a incrociare la dimensione dei concetti sensoriali. I concetti sensoriali appartengono profondamente alla dimensione del sentire. Qui abbiamo una seconda immagine di pubblicità che la introdurrò molto brevemente, anche questa, Campari, che probabilmente conoscete, anche questa, vi invito comunque a osservare con grande attenzione con il concetto che vi ho presentato e che vi ripresenterò, di farsi occhio, farsi sguardo, le pubblicità o il design o le architetture rispetto alle quali vi trovate a osservare e osservate. Bene, Campari, spero che sappiate che nella tradizione italiana, della pubblicità italiana, il concetto di pubblicità, che cos'è la pubblicità, è una cosa che immagino voi state qui anche per apprendere, per capire cos'è la pubblicità. La pubblicità, anche rispetto all'arte, è sempre qualcosa di difficile da definire. Sapete che quando nasce la pubblicità nel senso moderno, cioè verso la fine dell'Ottocento, già all'epoca molti artisti fecero delle pubblicità, per cui la distinzione netta tra arte e pubblicità è sempre complicata. È molto complicata, è una sfida costante rispetto alla quale voi siete venuti a trovare almeno la vostra soluzione temporanea. Per Campari è ancora peggio, perché Campari, nella tradizione italiana, artisti che appartengono al movimento futurista, anzi forse uno dei più significativi, che spero conosciate, se non lo conoscete vi invito ad andare a vedere le sue opere in internet, si chiama De Pero, un grande futurista che ha lavorato non solamente con quadri, anche con scenografie, con vestiti, quando stanno vestiti al teatro, come si dice? Costumi da teatro. I futuristi, musiche, non so se avete mai ascoltato. A gennaio, a Biennale, espongono le studentessa argentina è più brava di tutti quanti voi, è veramente. Il fatto a gennaio, però ecco, a gennaio si è dimenticato, a vedere che siamo alle studenti del finale. È vero che dicevo grande futurista, anche il rapporto di vero, non so se avete mai ascoltato le musiche dei futuristi, ne ho parlato, che nella musica c'è anche il rumore, i primi che hanno utilizzato il rumore per sviluppare un nuovo tipo di sensibilità musicale sono stati proprio i futuristi, per cui la macchina cosiddetta introna rumori di Ruffo, insomma, sono cose molto interessanti. Però al di là di questo, dicevo, ecco, Campari fin dagli anni 20 ha sollecitato molti artisti a fare pubblicità, per cui la pubblicità Campari è sempre interessante, molto molto interessante, anche quella in video, non so se avete in mente recenti campagne pubblicitarie della Campari. Questa, come vedete, introduce alcuni concetti che sono fondamentali per il criticismo. Allora, il primo concetto fondamentale, che è uno dei concetti, è la ghiera, è il corpetto o corsetto, come si dice, corpetto o corsetto? Corsetto dovrà essere col piccolo, corpetto. Il corpetto è, lo vedremo poi in tante forme, è un classico codice criticista. Sapete la storia del corpetto, brevemente nasce nell'Ottocento, nell'era vittoriana, le donne non potevano avere una vita larga, doveva essere sottilissima, per cui questo strumento, che era uno strumento in parte di tortura, in parte di controllo del corpo femminile, il corpo di donna doveva essere controllato dalla morale vittoriana, non solo vittoriana, dell'Ottocento, per cui veniva rinchiuso all'interno di questo corsetto che affermava un tipo di bellezza che era appunto una vita molto sottile, l'espansione dell'alto e del basso, perché chiaramente stringendo al centro si allarga l'alto e il basso, che era favorito da altri tipi di costume, insomma, cioè tutto un sistema di costruzione del corpo di donna che aveva però come centro del controllo corporeo della donna stessa appunto il corsetto. Ora, il corsetto, se questa è stata la matrice di dominio, di una visione morale, moralista e molto maschile, e anche maschilista, successivamente ha avuto, come accennavo, una biografia, cioè si è trasformato. Anzi, il corsetto è uno dei soggetti, già vi do un'altra indicazione, uno dei soggetti che maggiormente assume mutazioni biografiche. È un oggetto, soggetto che assume mutazioni biografiche molto forti, quindi fare una biografia del corsetto, ecco, si apprendono tantissime cose. Il perché sia diventato un oggetto, uso questo termine tra virgolette, feticista, e qui si presenta il feticismo visuale, penso che vi sia chiaro, il corsetto attualmente non è più nascosto da vestiti normalmente pesanti, no? Che costruiscono il tipo di corpo di donna. Il corsetto è diventato autonomo nella biografia da tempo, si esplicita, si mette come fosse appunto un primo vestito, perché questo sistema di lacci, lacetti, lacciuoli favorisce un tipo di atteggiamento appunto che sta dentro la cultura del feticismo. Per cui il secondo aspetto che vedete da questa immagine è che una che era una boccetta di un aperitivo di Campari, la bottiglietta assume il corpo di donna. Il fatto che una bottiglietta Campari, un aperitivo, assume il corpo di donna è chiaramente un feticismo. Che vuol dire? Vuol dire che la distinzione, ancora una volta, tra la dimensione soggettiva, organica, corporea della donna e quella inorganica, vitrea, mercificata della boccetta è una distinzione che si unisce, come se si appiccicasse questa dimensione di intreccio profondo, organico e inorganico, è dato dal corsetto, non solo dal corsetto, ma fondamentalmente dal corsetto. Quindi vedete che il corpo di donna ha, esprime, oltre a questo, il rosso, il famoso rosso Campari, e affine al rosso del sangue, quindi un ulteriore livello di affinità organica e inorganica. Il sangue non è più solamente appunto la dimensione che noi sappiamo del corpo umano, ma diventa, configura totalmente la dimensione. E infine, se notate in basso, sapete, nel boccetta Campari in basso ha sempre scritto Campari. Ora qui vedete Campari si raddoppia, è come se fosse un marchio nel doppio senso, sia il marchio del prodotto, sia marchio come marchiare, no? Come una specie di tatuaggio, che scrive per due volte, non casualmente per due volte, sulle due natiche Campari, Campari. E quindi perché? Perché la crocetta sta seduta la crocetta, perché la crocetta sta seduta perché è un corpo, perché è un corpo di donna, il corpo di donna sta seduto, e stando sedute nella zona dello star seduti, cioè nel sedere, c'è cioè la doppia marchia, la doppia marca che è il marchiale. Ecco, quindi vedete che questo tipo di pubblicità, questo tipo di comunicazione visuale in cui la dimensione mercificata si fa corpo, la dimensione mercificata si fa corpo grazie al feticcio visuale, e questo processo è dato da un sistema che per me sono concetti sensoriali. Cioè, a mio avviso, già all'interno di questa pubblicità ci parla, ci comunica, e il modo di comunicazione di questa pubblicità è per concetti sensoriali. Sono concetti che nello stesso tempo coinvolgono la dimensione sensoriale, il bere, il toccare, il sedere, il sedere. Allora, un'altra ipotesi di questa ricerca, un'ipotesi disgiuntiva, cioè fra il tradizionale concetto di feticcio, però presentare subito dopo, e l'attuale feticismo visuale, vi è una disgiuntura, vi è una frattura, vi è un qualche cosa di profondamente diverso che si inserisce all'interno appunto di questa frattura. E la frattura coinvolge tre livelli che vi presenterò. Il primo livello è la matrice coloniale del feticcio. Il secondo è l'analisi che Marx ha fatto del feticismo, e il terzo Freud, che a sua volta ha sviluppato una sua visione del feticismo. Quindi abbiamo, diciamo così, tre visioni del feticcio: quella coloniale, quella non marxista, quella marxiana. Sapete la differenza tra marxismo, il pensiero marxista e marxiano? È molto semplice. Il pensiero marxiano vuol dire che è di Marx, questo è così. Il pensiero marxista è dei seguaci di Marx, quindi è semplicissimo. Allora, la mia riflessione è una riflessione sul pensiero marxiano, cioè su come Marx, il pensiero di Marx, ha sviluppato appunto il feticismo, perché i marxisti sono una cosa che la lasciamo in un'altra parte. E infine, vedete, la dimensione coloniale, alienata e perversa. Ho messo a fianco tre immagini che sono dislocanti, non so se siete in grado di conoscere, ne parlo di una, almeno la prima ne parleremo in futuro. Vedete, la prima è una zip, una semplice zip, però non è una semplice zip, è un logo di una mostra data contemporanea a Orvieto. Chi è di Orvieto? Nessuno di Orvieto? Beh, avviene in questi giorni, tra l'altro, inizia una mostra di arti contemporanee e il logo è questa zip. Vedete bene che c'è una Z, una F, perché se vedete bene la zeppa messa così non è semplicemente una zeppa, ma è introdotta dentro la comunicazione della testa visuale. È una bocca, è una gola, è una lingua, può essere tante cose, ma certamente non è più solo una zeppa. E quindi, come vedete, il concetto di metafora in questo caso è chiarissimo. La zeppa, che normalmente ha un significato, un'utilizzazione molto semplice, no? Aprire e chiudere, molto storico, no? Perché è stata una grande evoluzione quella della zeppa, perché ha autonomizzato i bottoni, no? Il bottone è una cosa a cui magari non ci siamo tanto affezionati, oppure chi lo sa, altro elemento di grande feticismo, insomma, il bottone ha avuto in futuro una storia fondamentale. Poi a un certo punto il bottone entra in crisi, sul bottone, perché? Perché era la zeppa. Beh, la zeppa è tante cose. L'altra immagine è l'immagine di un artista che sviluppa il tema della vagina dentata, che è un mito molto diffuso in molte culture. La terza immagine sembra un'immagine di una maschera africana, di fatto l'immagine di Man Ray, un artista molto significativo, per cui vi ho messo, diciamo, delle immagini questo già l'hanno parlato, in questo senso forse credo di aver fatto bene avervi introdotto la volta scorsa la metropoli comunicazionale, perché vi ricordate, questa è una delle immagini, una delle architetture che maggiormente assumono il carattere di un feticcio corporeo, un feticcio visuale, un feticcio architettonico, che dà il senso di questo, di questa difficoltà a definire esattamente chi è questo essere. Non è solo semplicemente un'architettura, è qualcosa di altro. Quindi io spero che adesso sia più chiara questa cosa. E anche quest'altra immagine, adesso ho ricordato che stavo qua, però magari anche questa ve la presento molto brevemente, e vi permette anche di inserirvi nella dimensione del design. Infatti il design entra dentro i vostri interessi, non può non entrarci. Tra l'altro l'Italia ha una grande tradizione sul design, specie il design industriale. Attualmente, con la fine, la crisi del design industriale, diciamo, ci sono dei problemi su cui riflettere, in quanto il design è parte costitutiva della comunicazione. Quindi, anche questo vi suggerisco di affrontare il design. Ecco, qui vedete, qui ho messo questa mattonella perché a mio avviso è molto significativa. Vedete, in passato questa mattonella sarebbe stata un errore. Una mattonella che è una lacrima, che piange, che suda. È una mattonella sbagliata, sarebbe stata. Tra sbagliare sarebbe stata buttata via. Allora, la domanda che io vi faccio è: perché attualmente una mattonella di questo tipo, una mattonella di una lacrima che esce fuori dal confine in cui era stabilito, non è una regola estetica, ma non solo estetica, perché funziona? Anzi, non solo funziona, perché funziona bene, perché il design che ha elaborato questa mattonella è un design che conta. Allora, la mia risposta è che il design ha senso perché riesce a dare, come dire, non voglio dire il concetto di senso, ma certamente a inserirsi nella sensibilità contemporanea, anzi, ad anticiparla. Il design in questo senso è dentro la comunicazione, perché sia il design che la comunicazione anticipano una sensibilità. E questa sensibilità per me anticipata sta proprio nel fatto che giustamente se una mattonella suda o piange, lacrima, e quindi se una mattonella è viva, se in qualche modo qui c'è un occhio di mattonella, un occhio mattonellato, potremmo dire, no? Se c'è un occhio che sta piangendo, c'è una fronte che sta sudando, vuol dire che questa mattonella è viva. O, per dirla meglio, è morta viva. È un body corpse, contiene elementi il body come corpo vivo e di corpus come corpo morto. Per questo piange, per questo suda e per questo dà questa prospettiva adeguata alla contemporaneità, perché è una mentalità viva, è soggetto. Cioè, mi sto introducendo un meccanismo potente del feticismo, diventa soggetto alla natura, è un essere. Ricordate anche l'altra scultura, l'altra architettura, questa qua ve l'ho definita un essere, e essere è questo qualcosa, qualcuno, per me è un qualcosa, qualcuno, cioè le distinzioni tra qualcosa, un oggetto, e qualcuno come soggetto entrano in crisi. Ci sono alcune immagini che vi introducono, no? Quindi pensavo che era più breve, non mi ricordavo, ma visto che c'è, questa mi fa molto piacere commentarla e vi chiederò di intervenire su questa. Già l'altra volta vi avevo detto che la metropoli comunicazionale, quindi il feticismo, sta dentro la crisi della centralità della fabbrica, della produzione e l'affermazione del consumo, della comunicazione e della cultura. Questa volta affrontiamo il rapporto tra consumo e comunicazione, ma anche cultura, attraverso il codice a barre. La riflessione sul codice a barre è la seguente. Il codice a barre, prima di tutto, è la biografia della merce, è la carta d'identità della merce, è il nome e cognome della merce. Il codice a barre è l'indicatore per eccellenza, secondo me, per capire il passaggio dalla società industriale al consumo, alla potenza del consumo. Perché? Consumo e comunicazione. Perché il codice a barre, sapete, quando io faccio transitare questa bottiglia d'acqua al supermercato o qualsiasi altro posto, il lettore del codice, legge il codice a barre, e in quel momento non dà solamente il prezzo è uno degli effetti del codice a barre. L'effetto più importante sono un insieme di informazioni che il codice a barre emette. E chi le emette? Allora, se io compro un maglione, tra l'altro uno dei primi è stato Benetton a sviluppare questa tecnica, perché Benetton, sapete, ha inventato tutti questo decentramento produttivo basato sulla comunicazione che si chiama merchandising. Come? Allora, se io compro un maglione di Benetton in uno shopping center, vi dicevo, il codice a barre dà l'informazione del prezzo lì, ma dà nello stesso tempo, direttamente a Treviso, dove c'è Benetton, informazioni su il tipo di colore, tipo di misura, il tipo di stile e che sia. Cioè Benetton assume in tempo reale, sa in tempo reale, concetto della globalizzazione, uno dei primi concetti è in tempo reale, non si sa dopo, cioè in quel momento, che in quello shopping center si sono comprati, in quella città si sono comprati un certo numero di maglioni, un certo tipo di colore, certo di misura, usando un certo tipo di carta di credito, eccetera. Questa informazione Benetton naturalmente non la sa solamente da quello shopping center, lo sa da tutti gli shopping center di Roma, del Lazio, d'Italia, del mondo. Cioè in tempo reale il codice a barre dice che tipo di merce è venduta. In questo senso il codice a barre elimina la parte più dura dell'era industriale, cioè lo stoccaggio delle merci. Le merci nell'era industriale erano stoccate, sono prodotte poi lasciate nel magazzino fino alla sua vendita. Naturalmente adesso non funziona più, se Benetton funzionasse in questo modo sarebbe fallito, tutte le grandi imprese fallirebbero. Perché? Le grandi imprese hanno questa produzione just on time. E just on time deve avere il fatto che informazione in più nella comunicazione produce valore, capite? Il codice a barre quindi è direttamente produttivo di valore. Poi vedremo questo che significa la massima marcia. Quindi uno dei processi di valorizzazione delle merci contemporanee è dato da questa barra, queste barre verticali da diverso spessore. Il problema allora è il seguente. Già una decina di anni, più di 10 anni, l'articolo 94, il mio studente si tatuò il codice a barre sul corpo. Aveva seguito le mie lezioni sul catechismo visuale e ricerca di immagine e si era tatuato il codice a barre sul corpo. Perché io ho messo una cantante, una pinca, anche adesso va per me non tatuato il corpo. Allora, che voleva dire? Perché uno studente critico, attento, era uno dei primi che utilizzava le nuove tecnologie digitali, si tatua il codice a barre nel corpo. Che vuol dire? Che tipo di comunicazione lui vuole emettere? Magari aspetto delle suggestioni da parte vostra. Nello stesso tempo, no, per dare diciamo, risposta che insieme poi eravamo diventati di amici, assimilandosi alla merce, questo studente, quindi assumendo, incorporando il codice a barre e quindi diventando merce, cercava di dissolvere il potere verificante della merce stessa. Un processo, diciamo, di una politica comunicazionale in cui diventando merce con il codice a barre, assumendone l'identità, mettere in discussione il potere stesso del codice a barre. Questo era, diciamo così, l'atteggiamento trasversale, secondo me, di grande interesse di questo studente. Ma la domanda che mi pongo adesso è: come mai una marca di lingua famosa trasforma nella sua pubblicità le ciglia in codice a barre? Cioè, se abbiamo capito il processo, diciamo così, politico, innovativo, comunicazionale di quel mio studente, la domanda è: come mai adesso una marca di pubblicità trasforma le ciglia, che sono un elemento di grande seduzione femminile, le ciglia lunghe, lunghe come codice a barre, appunto, e perché questo tipo di pubblicità dovrebbe sedurre, dovrebbe favorire l'acquisto? Che cosa si mette in moto? Un meccanismo, diciamo, identificativo, la parola non mi piace, ma tanto per capirci, quale meccanismo identificativo si mette in moto tra una persona, una donna, probabilmente non solamente una donna, ma diciamo una donna che sente che le proprie ciglia possono essere non solamente affini, ma identiche a un codice a barre, e che questo produce attrazione, e che questo è sexy. Come mai il codice a barre diventa sexy, diventando ciglia lunghe e filiformi? Come mai? Perché si fa questa pubblicità? Che vuol dire? Si vede, nel basso c'è la quindi io scelgo questa marca perché si suggerisce che tra le mie ciglia e il codice a barre ci sia un'affinità. Posso comprare quello che voglio essere? Io compro una cosa, cioè un prodotto che deve essere così, come che le seduco, ce l'ho. Ma perché seduco con un codice a barre? No, credo che fosse legato al fatto di poterla acquistare. No, sì, quello, certamente, questo varrebbe per qualsiasi prodotto. La spiegazione che dobbiamo cercare di dare è perché seduce il fatto e non irrita. Perché io mi potrei irritare, per esempio, di essere considerato come che per le mie figlia fossero identiche al codice a barre, potrei sentirmi offeso, irritato, eccetera, e quindi tutto vorrei comprare, tranne che questa marca. Invece la compro. Perché la compro? È una marca ben famosa. Perché si usa? Dall'idea dell'unicità, sì, il codice fare dà l'idea dell'unicità, però l'unicità mercificata. Perché si può comprare, ma sì, questo però vale per tutto, non solo per il codice a barre, perché è il codice a barre che dovrebbe essere spesso percepito come uno strumento di controllo, di potere economico. Perché attira? Sì, è un tema diverso dagli altri. E la diversità è il codice a barre. Perché? Però il motivo è perché attrae, perché favorisce il limite. Quindi perché c'è un processo identificativo con qualcosa che dovrebbe essere repulsivo? Secondo me questa risposta ci si avvicina, perché io mi rendo oggetto rispetto alla seduzione per altre persone. Anche qui entriamo più dentro, perché il fatto che io trasformo in oggetto una parte del mio corpo seduco, anzi in oggetto merce, il titolo è uno stupita praticità. Secondo me il titolo più bello, cioè l'immagine più bella che dovrebbe stare al titolo del libro è questa qua, è veramente una stupita praticità. È l'occhio stupito, le cinque stupite, che sorprende di praticità, di cose, di merce. Perché attira? Perché questo è il problema. Ci sono altre fa diventare la donna merce e quindi a portare di tutti. Però una donna non comprerebbe il prodotto sentendo a portare di tutti, a meno che eccetera eccetera, però non dovrebbe essere il massimo. E poi questo non è il prodotto per qualsiasi, in modo perverso, però tu ci stai vicino, se ti aggiungi a quanto ha detto anche l'altra studentessa sulla dimensione dell'oggetto, del falso oggetto. Del falso oggetto. Può essere associato nella sua struttura, il codice a barre può essere associato alle ciglia, che sono comunque fini e lunghi, quindi è associazione a una parte del corpo femminile sensuale, e quindi è proprio un nesso di body scape, cioè c'è questo feticcio proprio tra qualcosa che è materiale e qualcosa che è vivo e che suscita l'interesse dell'altro, non del mio. Sì, l'hai espressa in modo un po' contorto, no? Però secondo me la spiegazione, che vediamo se riesco a riassumerla bene, l'elemento seduttivo è dato dalla dimensione di un tipo di feticismo che fonde la dimensione della merce con il corpo, la quale fusione è vista come una fonte di attrazione, perché il felicismo è la fonte di seduzione. Quindi questa capacità che ha il codice a barre di essere filiforme, quindi affine, anche qui ancora una volta abbiamo una metafora, no? Di essere filiforme, quindi affine al codice a barre, ci fa penetrare dentro quello che è il progetto questa parte del corso, cioè ma perché il feticismo attira? Che cosa contiene? Perché assume delle forme così diverse, anche insospettate? Questa, a mio avviso, è una delle forme più insospettabili di un potere seduttivo, una delle più insospettabili. Perché? Qui, vabbè, questa l'ho lasciata semplicemente per vedere, anche questa vi dà una banale pubblicità, più banale della Sony, non so se l'avete già vista. L'avete vista? Nessuno? Esprime il fatto di cui io mi pare già abbiamo parlato, che la musica non si ascolta semplicemente con le orecchie, la musica attraversa, viene anche mangiata, masticata. No, masticare la musica, i sensi si incrociano, vedete anche qui la dimensione polimorfa, cioè il fatto che i sensi non siano cinque come ci hanno insegnato a scuola, ma che i sensi si mescolano e si moltiplicano. Ecco, questo a volte lo dà meglio questo senso una pubblicità come questa, no? Mordere la musica. L'ascolto si ascolta con una orecchia, le orecchie che sono anche bocca. Ma diciamo, se permettete, l'excursus che inizia adesso e che ha l'immagine di un occhio chiameggiante, spero che sia chiaro, perché a ogni fase ci sarà questo tipo di occhio, perché è un occhio che suggerisce la nostra metodologia del farsi occhio. Quindi ho ripresentato i livelli differenziati e inizierei direttamente dalla matrice. Allora, il concetto di feticcio è un concetto storico, per tutti i concetti non storici, di questo dobbiamo capirne la matrice. La matrice è portoghese, in parte latina. Portoghese perché? Perché i colonizzatori portoghesi, siamo nel 1400, siamo un po' prima della scoperta conquista delle Americhe. I portoghesi, che hanno delle navi molto innovative, che poi chi ha conosciuto il Portogallo non sta nell'oceano, quindi l'oceano sta lì, noi abbiamo il Mediterraneo, quindi si sente l'oceano, no? Chi ha visto il Portogallo forse avrà visto per le volte un po' di oceano, è uno spazio illimitato, potente, difficile anche da comprovare, totalmente differente dal mare che conosciamo noi, il Mediterraneo. Bene, i portoghesi, grandi navigatori, arrivano nelle coste dell'Africa e iniziano un'opera appunto di colonizzazione. I portoghesi si trovano di fronte a queste popolazioni e, come spero sappiate, il colonialismo portoghese, ma non solo portoghese, in questo senso proprio portoghese, afferma che la religione è la religione loro, dei portoghesi, cioè l'unica religione, quella cristiana. Gli africani non avevano una forma religiosa, avevano qualcosa che potevano chiamare prelogico, chiamavano idolatria, pensamento magico, irrazionalismo. La religione africana, sottolineo, la religione, anzi le religioni africane, tanti libri di religione, non erano considerate tali, erano considerate superstizioni. E questa concezione eurocentrica della superstizione era caratterizzata da questo fatto, che alcuni elementi religiosi africani si coagulavano, si incorporavano in oggetti e in particolare in certe maschere, oppure, vedete, questo che ho messo è un feticcio, è un fetisso. Un feticcio proprio deve essere anche un albero particolare, che aveva delle forme un po' bizzarre, è quello di una roccia, un sasso, sempre con aspetti strani. Ecco, queste virgolette cose, perché non sono cose, erano viste dai portoghesi come volgare superstizione e chiamarono queste cose felici. Perché felice, felisso in portoghese, ha come matrice, per avere la scritto un titolo, non c'è, insomma, una matrice latina che è factitius. Factitius. Factitius vuol dire una cosa fatta, fabbricata. Quindi il feticcio è una cosa fabbricata, non ha nulla di spirituale, tantomeno di religioso. E quindi i feticci sono stati distrutti in gran parte dal colonialismo portoghese, non solo portoghese. Si diceva appunto che queste popolazioni, il termine che veniva usato all'epoca, hanno delle sapere, era prelogico. Cioè, noi abbiamo la logica, noi occidentali, gli africani stavano in uno stadio prelogico. Questa tesi era diffusa in tutti gli ambiti scientifici, l'ha insegnato un famoso antropologo francese. Quindi, barbari, prelogici, pre-religiosi, la religione è una, quella cristiana, tutte le altre, in questo caso, questa africana, feticista, era una dimensione. L'altro termine che si usava, e che si usa ancora, guardate bene, che lo trovo molto strano, è il termine animista. Non so se avete mai ragionato sul termine animista, no? Le regioni, la regione africana, anche l'altro giorno un povero disgraziato mi ha detto, ah sì, in Africa, certo, ma andiamo a parlare del Brasile, ah sono animisti. Ora io non è che ogni volta posso spiegare tutto quanto, ci provo, ma insomma, tenete presente che l'animismo è un altro concetto del dominio coloniale occidentale, animismo, che identifica il fatto che io ho l'anima perché sono cristiano. Tu sei un animista. L'animista è come se fosse un po' una degenerazione dell'anima. Stai vicino all'anima, ma ancora non ce l'hai nel senso pieno. Per questo sei animista. Credi che le cose abbiano un'anima, siano anch'esse animiste come te, cioè te africano e te oggetto che ti produci siete animisti, qualche cosa che implica una concezione profondamente dicotomica. Io ho l'anima, tu forse ce la potrai avere, ma per adesso sei animista, hai una degenerazione prelogica e barbarica dell'umanità. Degenerazione prelogica e barbarica dell'umanità. Per questo che si continua a utilizzare, questo è veramente stupefacente, il concetto di animismo ancora adesso per identificare culture diverse dalle nostre, si continua con la massima tranquillità in tutti gli organi di stampa, eccetera, a definire animista una persona che ha una religione altra, ma che invece di essere religionato è animista, trovo che la dimensione di questo dominio concettuale, che non è solo concettuale, è più complesso, dell'Occidente continua. C'è una domanda? Da dove viene questa ignoranza occidentale? Da dove viene questa ignoranza occidentale? Io penso che derivi questo sistema classificatorio molto semplificato da una concezione in parte amico-nemico, cioè chi sta con me ai livelli dell'umanità, della razionalità, eccetera, eccetera, chi sta fuori da questi confini, è un barbaro e quindi è. Cioè, la cultura occidentale si è formata su questo concetto di civiltà che appartiene al gruppo. Fuori dal gruppo si è incivili, si è barbari, si è animisti, perché l'anima, la religione profonda appartiene. all'interno di questa visione dell'Occidente. Il che, prego. Lei però crede in questa definizione che ha appena dato di gruppo, no? E io vedo il nemico diverso di quello che ha fuori dal gruppo. Sarebbe stata la chiesa se questo esploratore, andando lì, magari trovassero per fantasia una civiltà, magari futuristica, con problemi, altre malattie, per loro attualmente una migliore. Quindi cose tra virgolette da invidiare. Pensa che la connessione rispetto a loro sarebbe stata la stessa. No, questa è una domanda, no, sicuramente no, vi era una cosiddetta supremazia tecnologico militare, che poi è diventata anche economica, politica e anche culturale e religiosa, quindi sono tutta una serie di meccanismi intrecciati. La tecnologia militare più forte agli europei era dal fatto che sappiamo, la polvere da sparo imprimeva una massa tutto, nessuna popolazione poteva resistere. La Cina aveva la polvere da sparo, lo sapete, però usavano la polvere da sparo per farci i fuochi d'artificio, non usavano mai tanto gli strumenti bellici. Per cui questa dimensione di superiorità tecnologica, le armi, ma anche le navi, no? Ha favorito un controllo politico e ovviamente culturale anche religioso. Allora, la distinzione di cui già vi avevo accennato, che viceversa va presentata adesso, è tra religione e sacro, perché questi portoghesi, secondo me, a tutte e due le domande che sono state fatte, identificavano, così come ancora molto spesso si continua a identificare, religione con il sacro. Ma religione e sacro non sono identiche, ci sono delle profonde differenze, tra l'altro, se no non sarebbe un concetto così diverso. Allora, il concetto di sacro è un concetto che quando si è iniziato a studiare, grosso modo all'inizio del Novecento, in modo autonomo, allora, la religione, questo era accennato, ha sempre una dimensione istituzionale. La dimensione istituzionale di ogni religione, specie le monoteiste, prendete le tre religioni monoteiste, è un testo sacro, un luogo di culto, una chiesa, una moschea, dei sacerdoti che interpretano i testi sacri e dei rituali. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano la religione ed sono elementi istituzionali: un luogo di culto, un libro, un rituale e alcune persone che si sono selezionate come sacerdoti. Il sacro non ha niente di questo. Il sacro è imprevedibile, la parola che spesso viene usata è indicibile. Il sacro è indicibile, è incontrollabile. Ha una forza che deriva da alcuni elementi che l'umanità si trova di fronte, che appunto sono incontrollabili. Pensate alla morte. No? La morte è uno degli elementi fondamentali in cui il sacro cerca di dare soluzione, o anche una malattia, o anche una catastrofe naturale. Ci sono, cioè, tutta una serie di eventi che stravolgono la vita quotidiana di tantissime culture, di tutte le culture, cui non si sa come affrontare. Non c'è soluzione alla morte, o a una catastrofe naturale, o al fatto che il sole, come si dice, il riscaldamento, non piove, queste cose qua. Allora il sacro si mette con una potenza appunto indicibile e incontrollabile dentro a tutto quello che non si può controllare. È come se ci fosse un conflitto costante tra l'incontrollabile e il sacro come un disperato tentativo di controllare quello che sappiamo bene, almeno non lo sappiamo, certo punto che non è controllabile. Per questo il sacro è considerato spesso razionalistico. Spesso il sacro assume delle forme delle tradizioni popolari, la donna che piange, il santo che salta per aria, che ti dice ah, io mi sono salvato perché il padre Pio mi ha fatto salvare a me e perché ha fatto prego l'altro, si capisce. Ma ha una forza questo aspetto, perché questo mette in questo meccanismo di qualche cosa appunto che non si può controllare, che la religione non riesce a controllare, il sacro c'entra dentro. Il sacro in qualche modo, se avete seguito la riflessione sul mito, ha affinità con il mito. Il sacro non racconta storie come il mito in modo diciamo irrazionale. Il sacro cerca di affrontare di petto quello che ci sconfiggerà sempre, ma che ogni volta noi cercheremo di trovare soluzione, la morte. Noi sappiamo che non riusciremo mai a battere la morte, ma il sacro ci prova e ci proverà sempre. La sconfitta quotidiana rispetto a questo è nulla rispetto al potere suggestivo, al fatto che noi possiamo in gran parte vivere perché immaginiamo di poter sconfiggere tanti aspetti della morte. E il sacro poi è spontaneo, è una spontaneità, non è quindi istituzionale. Non è controllato dall'istituzione, ha una spontaneità. E molto spesso, anzi, secondo me, una concezione importante del sacro è che è immanente. Il sacro è immanente, sta dentro ogni corpo della cosa, nel suo corpo, nella sua cosità, cosalità, così. E vi posso dire, da questo punto di vista, che il sacro esprime questa valenza antimetafisica. Antimetafisica è immanenza, per questo è stato sempre costantemente perseguitato nel sacro come manifestazione di un tipo di visione, ecco, del mondo. Allora, se tornate a vedere l'immagine in cui torneremo, dovrebbe essere un teschio. Una persona, coloro che è morta, poi lo vedremo nella terza parte, di fatto già non è più un teschio. Capite? Perché il sacro riesce a trasformare ciò che è morto, e non è più morto un teschio, nulla è più morto un teschio, ma il sacro riesce a trasformare in qualcosa di altro. In questo caso già sta diventando una rara, che è un uccello di fondazione della cosmogonia borghese. Quindi il feticismo, detto in un altro modo, ritornando al primo concetto, il feticismo mette il feticcio a questo potere che agli occhi dei portoghesi era incomprensibile, trasforma in soggetto quello che è un oggetto, trasforma il soggetto quello che è un oggetto. Questo è un oggetto? È un oggetto, può essere adesso considerato un'opera d'arte, sta nei musei antropologici, ma potete trovarlo anche nei musei di arte contemporanea. Ecco, questo essere è un feticcio perché unisce la dimensione del soggetto e dell'oggetto. Quindi questa forse è la prima affermazione fondamentale di un potere sacrale incontrollabile del feticismo, che mescola il soggetto con l'oggetto. Noi siamo abituati, anche la domanda prima diceva sì, ma la cultura occidentale, la filosofia occidentale nasce distinguendo nettamente soggetto e oggetto. No, la filosofia dell'Occidente nasce su questo potere logico. No, qui è il soggetto e io l'oggetto. Il feticcio mescola questi due elementi e diventa incomprensibile agli occhi dei portoghesi, non solo. Diventa incomprensibile e allora, diventando incomprensibile, scatta il meccanismo dello stigma. No? Diventa una cosa barbara, da bruciare, prelogica, animista, ecco questo animismo, capite? Questa piccola, imperfetta, parziale anima che non riesce a esprimere la profonda metafisica del concetto di anima, capite? Questo è. Pausa. Giusto perché si è arrivato a Max. Ci sono persone che hanno una religione diversa dalla nostra, per chi ha una religione, ma il fatto che una persona che abbia una religione differente dalla nostra non vuol dire che sia animista, vuol dire che ha una religione. Io spero che tutti quanti voi, credenti o non credenti, qualsiasi religione o non religione voi abbiate, siate d'accordo con me, spero che sia così, che una persona che non segue la nostra religione non è un animista, è una persona che ha la sua religione. Quindi accettare, e non solo, questa molteplicità di visioni culturali, religiose, eccetera, secondo me è una delle prime regole dell'antropologia culturale. Spero che vi sia chiaro. Va bene? Altre domande su questo animismo? Prima abbiamo detto che nella azione colonialista dei portoghesi, appunto il termine animista è riferito a oggetti inanimati. Apparentemente inanimati. Cioè per i portoghesi inanimati, per gli africani no. Come però questo è un po' come dire, c'è dell'ipocrisia nel mondo occidentale, perché comunque il mondo occidentale fa riferimento, uso una metafora. C'è un'ipocrisia nel mondo occidentale perché l'Occidente. Perché nell'Occidente si fa riferimento a degli oggetti inanimati come qualcosa che è animato. Un esempio è il corno che si usa per allontanare. Ah sì, no, certo, infatti, ma io l'avevo detto, tu sei pronto. L'esempio del corno, del cornetto, delle tradizioni popolari. Le tradizioni popolari, a Napoli, nel regno di queste cose, no? Ha incorporato tutta una serie di elementi che servono a controllare quello che non è controllabile. Certo che, però, è stato classificato come cultura popolare, o come superstizione, oppure come ingenui. C'è chi crede che il corno rosso, il cornetto, porti fortuna. Sì. Come dice Edoardo, non è vero ma ci credo, ricordate questa cosa, non è vero ma ci credo, nel senso che la frase importante è che non è vero ma ci credo esprime bene un senso comune che normalmente nessuno crede, in genere non si crede che si aspetti legati a un pensiero che sto chiamando anche magico, eccetera, abbia una funzione. Però se io mi trovo di fronte al fatto che sto per morire, o dal fatto che l'acqua è finita e sto morendo di sete, o che non riesco a coltivare sulla terra perché c'è la siccità, se mi trovo di fronte a queste cose io lo faccio, ci provo. C'è una grande tradizione che continua fino ai giorni nostri, quando c'è una siccità non solamente nel sud Italia, ma in tanti parti anche nel nord, c'è la processione per cui il sacerdote va in processione per chiedere, no, acqua ritorni. Quindi sono tutta una serie di meccanismi attraverso i quali si cerca di affrontare quello che non si può affrontare in un altro modo e che sono appunto giustamente possono essere anche superstizione. Ora il feticcio, a differenza della superstizione, ha qualcosa in più. Questa è la specificità. Se cogliete questo, cogliete la specificità del feticcio, sia nella matrice, come abbiamo visto, che ancora di più in Marx, quindi se noi entriamo in Marx perché diventerà ancora più chiaro. Allora, su Marx, abbiamo detto che Marx affronta il problema del feticismo in un celebre passo del Capitale, nel primo libro del Capitale, che a mio avviso è una delle parti che ancora funzionano. Tutto è stato, io posso, questa è la mia conclusione attuale, l'analisi di Marx non funziona per dare il senso del capitalismo attuale, ma funziona per dare alcuni elementi, forse uno dei pochi elementi in cui l'analisi marxiana funziona, è quello del feticismo. E vediamo perché. Allora, a parte che siamo molti anni dopo, molti secoli dopo, abbiamo visto che nel 1400 viene elaborato questo concetto, poi c'è un altro francese che lo sviluppa, ma è Marx che dà che rende popolare questo termine. Per cui adesso ci tengo a affrontare con estrema chiarezza e semplicità che vuol dire Marx con il concetto di felice. E ho messo naturalmente l'immagine che adesso conoscete bene, la fabbrica che sta diventando, che è diventata una fabbrica morta. Allora, scusa? Chi è che parla? Estraneazione e reificazione. Perché il concetto di criticismo di Marx è legato a questi concetti, quindi è giusto che siano ben chiari. Allora, l'analisi di Marx è stata la seguente. Nel processo di produzione capitalistica, il singolo operaio, la classe operaria nel suo complesso, dice Marx, si trova di fronte alla merce che è una potenza estranea. La merce si presenta come una potenza estranea a lui di fronte all'operaio, si esibono come estranea. Il fatto che sia una potenza estranea gli permette di precisare il concetto di estraneazione, concetto di estraneazione che era stato già precedentemente elaborato dal maestro di Marx, che era Hegel, come sapete, solo che questo tipo di filosofia hegeliana per Marx era idealistica. E allora il concetto di estraneazione, Marx che rovescia l'idealismo in termini diversi, lo vede applicato alla produzione industriale, cioè la merce che è il cuore della produzione capitalistica si presenta come una potenza estranea a lui di fronte. Perché una potenza estranea? Dice Marx perché per diversi motivi. Il principale motivo per cui è una potenza estranea, cioè un principale, scusate, è che l'operaio precapitalista aveva una conoscenza dell'intero processo produttivo, e quindi la cultura dell'operaio, dell'artigiano precedentemente, era una cultura complessa che accompagnava l'intera produzione. Capite? Accompagnare l'intera produzione. Con il sistema di produzione capitalistica, questa sapere, questa cultura operaia è stata tagliata, come se fosse stata affettata, è stata resa parziale, perché l'operaio doveva compiere solo una operazione e quell'operazione doveva essere ripetuta tante volte. Già Adam Smith, non so se ricordate, c'è una certa fase, se ogni operaio fa uno spillo ci mette una montagna di tempo, se invece lo spillo è fatto da tanti piccoli lavori fatti da diversi operai, se ne producono tantissimi. Quindi il concetto che noi dobbiamo introdurre è quello della divisione del lavoro. No? Il lavoro viene diviso nella fabbrica e una volta che il lavoro è diviso, io, singolo operaio, faccio quella parte del lavoro, la faccio per sempre. In questo modo perdo la visione generale della produzione. Capite? Il complesso sistema produttivo per cui il lavoro è tale mi sfugge, perché l'essere umano è tale da chi lavora. Questa era l'ipotesi che in gran parte ancora continua, diciamo, di Marx, non solo, anche Hegel diceva questo. L'essere umano è tale perché produce e io mi rivelo in quanto essere umano in quanto produco, consapevolmente produco. Se la produzione non è più l'attività centrale della mia cultura umana, se io non esprimo la complessità della mia cultura ma ripeto sempre costantemente una parzialità, mi sfugge l'intero processo produttivo, mi sfugge. E questo processo produttivo nella figura della merce è una questa potenza estranea mi produce alienazione, che è il concetto affine a estraneazione. Alienazione e reificazione, scusate. Reificazione vuol dire, la parola che arriva da res latino, che io, lavoratore, io operaio, vengo trasformato in cosa? Questo è il processo di reificazione. Il processo di reificazione significa che all'interno del mio del processo produttivo, io che sono un essere umano, mi reifico, cioè sono trasformato in cosa? E ancora di più, la cosa per eccellenza è la merce. Quindi, estraviazione significa appunto, avete fatto un break lungo? Fa piacere. Estraviazione significa appunto questa impossibilità del singolo, della classe operaia, di avere un rapporto col processo produttivo. Reificazione, vediamo che c'è un processo di induzione. Io che sono operaio mi sento diventare, mi sento reificato, cioè sento che sono trasformato in cosa? In merce. E nello stesso tempo, e qui entriamo nel momento fondamentale, la cosa, la merce, si trasforma in feticismo. La merce diventa felice. Quindi togliete il passaggio fondamentale da un oggetto sacro, un oggetto soggetto sacro, alla merce. E la merce, anche la merce per essere un oggetto soggetto. Per questo usa il termine feticista. Perché, dice Marx, la merce che comincia a muoversi, ad avere una sua soggettività, è come se la merce avesse fosse soggettiva. E la classe operaia forse fosse solo oggettiva, appunto, cosa? Quindi c'è un rovesciamento della dialettica. Ciò che è soggetto diventa oggetto, ciò che è oggetto diventa soggetto. Allora il feticcio significa che la merce si muove, è agita, si anima, in qualche modo è animista, possiamo dire, per giocare non sempre con questi termini, perché ha qualche cosa che non si riesce a capire. C'è qualcosa che sfugge nel valore della merce. Questo qualcosa che sfugge e che non si capisce nella semplice toccare, nella semplice produzione della merce come questa bottiglia, lui la chiama plus valore e plus no. Cioè c'è una quota del lavoro che l'operaio fa che non viene retribuita e che diventa plus valore e che produce capitale. Allora questo aspetto del plus valore e del plus lavoro trasforma in una dimensione quasi magica la merce, soggettiva. Lui dice che si mette a ballare, la sede si mette a ballare perché non è più comprensibile. C'è qualcosa che sfugge, non solo quindi sfugge a livello culturale, no? L'operaio è estraniato perché non coglie il processo produttivo, è reificato, diventa merce tra le merci, e viceversa, quella che dovrebbe essere la merce, cioè la merce in senso stretto, diventa innata, diventa soggettiva, acquisisce un valore quasi teologico, dire Marx, che è invisibile, non si capisce con la semplice brutta materialità. Questo qualcosa è appunto questo valore e questo lavoro che trasforma la merce in grande feticcio. La merce è quindi un grande feticcio. E Marx usa anche l'espressione, secondo me, bellissima. La merce, dice, è sensibilmente sovrasensibile. Se capite questo concetto, afferrate, è un concetto dialettico, sta dentro la filosofia dialettica, chiaramente. Ma è un concetto, io non amo, come vi ho detto, la dialettica, almeno la crisi, ma all'interno di questo paradigma della dialettica, questo concetto di Marx, mi pare che sta qui, ecco, vedete, attenzione a questo momento magico, La merce è una cosa sensibilmente sovrasensibile. Cioè Marx ha capito perfettamente che merce non è, come dire, monista, non è un singolo oggetto, non è una cosa. Quindi vedete che quando si parla del materialismo di Marx bisogna sempre stare molto attenti, perché il materialismo di Marx è molto complesso, non è assolutamente economicista o volgare, ma è un materialismo complesso che ha questa frase, secondo me, come una chiave per interpretare il potere felicista della merce, che è la merce una cosa sensibilmente sovrasensibile, cioè quello che normalmente noi tendiamo a dividere, sensibile, solo sensibile, la merce lo unifica. E perché va unita? Perché è felice. Se avete sentito il ragionamento, la merce eredita il potere di felice del felice quattrocentesco. Vedete? Solo che lo trasforma da momento religioso, sacrale, coloniale, in valore, in capitale, in merce. Capite qual è la differenza? Una cosa è il colonialismo, che è un sistema basato tra l'altro col lavoro, con la schiavitù, con il controllo militare, eccetera. Tutto questo il capitalismo lo distrugge. Il capitalismo non vuole schiavi, vuole salariati, sapete. Vuole la merce lavoro che si occupa sul mercato. E questo aspetto del sensibilmente sovrasensibile esprime questa complessità di una merce che non si capisce. Cioè, se noi osserviamo una merce, questa merce non viene compresa. Che ci ha detto? Che ci ha detto la merce? Marx dice ci ha dentro un valore, ma non solo, ci ha dentro una quota di valore che non viene redistribuita. In questo senso la sua è una critica dell'economia politica. Che cosa non vede Marx per anticipare alcune delle sue? Cioè Marx capisce perfettamente che se avesse il discorso la merce è un felice, eredita la capacità del felice coloniale perché mescola il soggetto e l'oggetto. La merce si trasforma in questa ambigua soggettività oggettiva, diventa sensibilmente sovrasensibile. Dentro il corpo della merce, il corpo della merce ha un corpo, Marx utilizza spessissimo questa metafora. Il corpo della merce racchiude qualche cosa appunto che non è sperimentabile mangiando o utilizzando la merce. Quindi se io mangio del grano non capisco come è prodotto. Se io mi siedo non capisco questa sedia da che cosa è stato, c'è qualcosa in più che va al di là, che è felice. Per questo Marx parlava di eliminare il carattere di felice della merce, era la sua ipotesi, che non era solo filosofia, era una filosofia sociale, diciamo così, di eliminare il carattere di felice della merce. Solo che qual è il limite di Marx già all'epoca? Sarà compreso la generazione successiva, neanche quella successiva, un po' Benjamin è il primo che ci si avvicina. Ma sì, nel 1858, adesso non ricordo esattamente l'anno, però sono 1858-57, c'è l'Internazionale Comunista, la prima Internazionale Comunista a Londra. E in quello stesso anno, c'è la prima esposizione universale. E nell'esposizione universale la merce, che a livello della fabbrica produce estraniazione, come abbiamo visto, produce conflitto, produce alienazione, io mi alieno della produzione, divento qualcosa di altro, e questo qualcosa di altro è una cosa, la merce. Quindi il profondo antagonismo, il conflitto che quella merce produce in fabbrica, quando è esposta in un'esposizione universale, ho detto, ho parlato di questo, no? È universale, perché la civiltà dell'Occidente che crea l'esposizione e la civiltà dell'Occidente hanno una cosa come esempio, la merce. Allora, quando questa merce è esposta a Londra, ha un potere questa merce, non è più semplicemente determinato di lavoro, e in quanto tale non produce semplicemente estraneazione. La merce esposta assume e produce anche qualcosa di altro, di perturbante, produce immedesimazione. La stessa merce, lo stesso prodotto che lì nella fabbrica produce conflitto, l'operaio trasformato in cliente osserva la merce esposta e lì si identifica, c'è un processo identificativo. Non è casuale che in grosso modo in questo periodo, un po' prima, nasce la vetrina. La vetrina è una delle più grandi rivoluzioni nella comunicazione metropolitana, perché la vetrina veramente ha una dialettica. La vetrina rende trasparente il rapporto di sguardo tra me e la merce, solo che non la posso toccare. La vedo, la guardo, sono sedotto, ma non la posso toccare. Ancora di più, in un celebre passo di Bene, una riga veramente, Bene mi dice, 1830, non mi ricordo esattamente, più o meno questo periodo, accanto a una merce esposta in vetrina è stato collocato il prezzo. Prezzo accanto a una merce esposta in vetrina. Questa è stata una rivoluzione comunicazionale straordinaria. Perché io camminando per la strada, cosa che non era possibile prima, osservo una vetrina, qualcosa che è pubblico e privato, è trasparente ma è inafferrabile, è inattraversabile, e posso vedere il prezzo esposto in pubblico che produce forse una delle più grandi rivoluzioni comunicazionali. E non si sa chi l'ha inventato questo. Chi ha inventato la persona che ha avuto l'idea per prima di mettere il prezzo accanto a una freccia? Non si sa, neanche Bene lo sa, che ha studiato queste cose. Eppure lì è scattato un processo di trasformazione incredibile. Appunto la dialettica della vetrina, che poi altro da noi in Italia è molto più tardi. E potete immaginare, perché immaginare a Roma, per esempio, è impensabile mettere le vetrine con le merci esposte. C'erano, quando era lo Stato Vaticano, era proibito. Quindi le vetrine arrivano molto in ritardo a Roma, non solamente a Roma, un po' nel nord, a Torino, eccetera, che aveva un'influenza francese più forte, ma la vetrina, questo aspetto di straordinaria potenza comunicazionale, feticista, arriva tardi qui, mentre invece arriva subito là, a Londra e a Parigi, che sono le capitali dell'esposizione universale. Allora la merce, appunto la stessa merce, per tornare al nostro problema, materiale e immateriale, che cos'è il materiale e immateriale? Il felicismo. Il felicismo unisce il materiale e l'immateriale, che è il tema dell'oggi. E oggi il nostro sistema produttivo è definito più o meno da tutti come materiale e immateriale. Il sistema cosiddetto post-industriale, chiamiamolo come lo volete chiamare, post-industriale, siamo tutti d'accordo, produce qualche cosa che è materiale e immateriale, cioè le distinzioni classiche che noi avevamo non funzionano più. Marx in parte l'aveva capito, l'aveva capito dal punto di vista, ma non aveva capito che quella stessa merce spostata di contesto, ricordate la lezione su Geertz, no? Qualsiasi cosa ha un significato in un contesto. Allora, quella stessa merce in un contesto differente ha un significato diverso. E lì si attiva, si immedesima, favorisce l'immedesimazione. E allora abbiamo, quindi già in questo periodo, Marx non capisce questo naturalmente, già in questo periodo la comunicazione metropolitana è più avanti del conflitto politico, è più avanti della dialettica. Cioè già all'epoca, già nella metà dell'Ottocento, esporre a livello universale una cosa, merce, oggetto, lo stupore della fatticità, esprime qualcosa di molto più potente della semplice merce, così come viene prodotta nel posto di lavoro. Quindi questo valore in più, un valore aggiunto, è un valore comunicazionale che, vi ripeto, produce immedesimazione. Quindi è come se lo stesso soggetto, se torniamo all'operaio, al lavoratore, vivesse già all'epoca qualcosa di più complesso di come vedeva solamente Marx, cioè vivesse un'ambigua relazione tra estraviazione e identificazione. E questa ambiguità tra estraviazione e identificazione, che cosa è data se non dal potere seduttivo di una merce felice? La merce felice ha questo potere seduttivo. Ci siete? Attenzione però, le macchine sostituiscono il lavoro a partire dalla rivoluzione industriale. No, la famosa, spero che sappiate, sono nel 600, nel 700, sempre in Inghilterra, c'è un tizio che mi sfugge il nome, non so se si dà nome, che inventa questa ma non è una diciamo il lavoro tessile, c'è una spoletta. No, cioè il lavoro tessile è la lavatrice del capitalismo. Inventa questa spoletta si lavora molto di più, perché invece ogni volta di mettere la lana in un certo modo, la spoletta diventava automatico, per cui la produttività aumentò tantissimo e nacque il licenziamento operari, stiamo proprio nella seconda metà del 700, e nacque un movimento che spero conosciamo, si è molto luddista. I luddisti erano quelli che bruciavano la macchina. Quindi i luddisti sono stati quelli che bruciano le macchine. Marx è contro i luddisti. Marx non è contro le macchine. Il rapporto di Marx con le macchine è un po' più complesso, molto più complesso. Io adesso non entro dentro questo, ma chi fosse interessato nelle famose frontiere, che sono una parte del capitale che si conoscerà molto dopo, perché era sconosciuta prima di fretta, lui analizza la questione delle macchine in modo un po' più complesso. Ma la tua domanda è, quindi, il fatto che le macchine sostituiscono il lavoro, ma è così e non è così, nel senso che il lavoro si trasforma, appunto, non è più solamente lavoro industriale. Se tu fai questa pubblicità, questa opera, il tuo è un lavoro. Ma comunque, se ho capito il senso della domanda, è che il concetto di feticcio coloniale e il concetto di feticcio marziano fanno una brutta fine. Sì, sono inadeguati. Se tu vuoi dire sono inadeguati, sì, sono d'accordo, non riescono a dare, no, in parte hanno dato il senso. Magari se Marx dava il senso a lui contemporaneo, perché non casualmente la sofferenza del processo produttivo capitalista è stata una delle sofferenze più terribili nella storia dell'umanità. Devo dare sempre che le fabbriche lavoravano non solo i uomini, le donne e i bambini, no? So queste cose da vedere. Quindi, diciamo, sì, l'analisi di Marx funzionava per il suo periodo, solo che era parziale in tante cose, e attualmente non funziona. Ma che è quello che funziona? È un filo, anzi sono tanti fili, che cercano di dipanare, di dare senso a questa cosa che chiamiamo feticcio. Di cui abbiamo visto una seconda mutazione dopo quella coloniale e che ci apprestiamo a entrare nella terza mutazione, che è quella freudiana, se non avete altre domande. Thank you. momento in cui la merce assume un prezzo, questo è il prezzo, ma il valore della bottiglietta, il valore del lavoro che è stato remunerato per produrre questa bottiglietta, questo diventa molto grandissimo. Sotto condizioni capitalistiche strette, una parte di questo lavoro non è stato pagato. Quindi c'è, dovete cogliere la differenza tra il concetto di valore, lavoro e prezzo. Sono tre aspetti diversi. Il prezzo è, diciamo, una trattativa costante con il mercato, rispetto alla quale definisce un certo tipo di valore, ma non è l'intero valore della merce, perché secondo Marx l'intero valore della merce ha qualcosa in più che è stato sottratto al lavoro operaio e che viene intascato dal capitalista. Questo è il prezzo. Valore di un'economia basata c'era schiavitù sul lavoro e il valore dell'economia basato sulla produzione industriale è incomparabile, che è una delle motivazioni per cui si risponde sempre alla domanda centrale. Il lavoro industriale è un processo di dominio, di controllo, che non è solamente locale, ma si espande nell'universale. Rita. Al valore. La parte non conosciuta, diciamo, anzi, è quella da qualcosa di più del lavoro che non è pagato, che è il plus valore. Questo non è. No, questo porta a essere estraniato dalla legge. Il fatto che ci sia questo plus valore, plus lavoro, è una cosa che non si capisce. Lo credo, sì, ma lo capisce. Veramente neanche il capitalista, questo non è chiaro, non è visto bene, Massimo lo dice, ma certamente non è capito, perché non si capisce dall'odore, dal sapore e dall'uso della merce, non si capisce il suo valore, il valore scambio. Per questo produce estraneazione, perché è qualcosa appunto che sta al di là della dimensione puramente sensibile. Il sottosensibile è il valore, questa parte di valore che non è pagato, questo è il. E questo che favorisce, ha favorito un rifiuto del lavoro, di cui la storia è piena, cioè sotto condizioni capitalistiche il rifiuto del lavoro è pieno, non è solamente lo sciopero. Non è solamente lo sciopero. Il rifiuto del lavoro ha usato tantissime forme, la malattia, il sabotaggio, faccio questo, non fa la fortizia, faccio finta di lavorare una cosa, c'è tutto un sistema di controllo che voi conoscerete sempre di più e che arriverà al periodismo, al fortismo. Conoscere il periodismo e il fortismo sarà ancora più razionalizzato questo sistema produttivo, no? Per cui tu avrai i tempi, sarà il famoso sociologo che avrà il compito di misurare il tempo di lavoro di una singola operazione. Quel tempo di lavoro, se sono 25 secondi per fare il pezzo, quello lo dovrei fare per 8 ore, anzi per 10 ore. Questo è il concetto. Quindi la produzione del lavoro, per essere chiaro, come ho detto, è legata anche al tempo di lavoro. È legata anche al tempo di lavoro, che mi è sottratto. Il tempo di lavoro mi è sottratto, per cui non ho più lavoro. Penso pieno di umanista del termine. Max ha la visione umanistica della vita. E in quel momento una parte della popolazione è come se non vivesse pienamente la sua umanità, perché l'umanità si produce nel lavoro. Questa è la filosofia di Max. Il lavoro produce e produce l'umanità, cosa che infatti l'ha detto anche Hegel, ma non in condizione capitalista. Nel saggio famosissimo, non so se l'avete studiato, la filosofia Servo Padrone, forse la parte più bella di Hegel sulla sua dialettica è quello Servo Padrone, una bellezza incredibile, un'attualità straordinaria, solo che Marx la contestualizza nella produzione industriale. Così ho risposto a loro. Certo, lì. Gentry è 600 in Inghilterra, gente dalla campagna per le città, quindi abbandona per una questione di crisi, adesso non entro nel dettaglio, la produzione agricola in condizioni fredali, entra in città. Entrando in città assume una differente composizione sociale e va a lavorare in condizioni di lavoro salariato. Il lavoro salariato è tutto da all'energia, quindi ha un salario, ha una sua casa, ha una famiglia e assume su di sé un soggetto storico. Soggetto storico, il soggetto salariato, lui è il soggetto storico. Lo schiavo un po' riferisce, è stato ridotto in schiavitù, sistema politico, morale, che sappiamo quello che è. Quindi fate attenzione, anche se a volte si usa come metafora, la schiavitù è agricola, latifondista, non c'è remunerazione, non c'è salario, non c'è capitale. Il capitalismo nasce nella fabbrica, in città, nelle industrie. Quindi il salario è connaturato al lavoro salariale. Non possiamo massimare. Il capitalismo è nel 1840-60, nel 1840? Ma certo, ma anche dal 1840 è diverso da Roma. Anche nel 1840, ripeto, il capitalismo come forma che dissolve il feudalismo è un processo che inizia grosso, alcuni aspetti già nel 500. Nel 600 c'è una prima grande migrazione, specie in Gran Bretagna. Il 700 ha l'invenzione del tessile come sistema produttivo, poi l'800 avrà la rivoluzione industriale in senso stretto. Tutto questo processo, dal Rinascimento al 600 fino ai primi decenni dell'800, affermano la rivoluzione industriale. Dalla rivoluzione industriale in poi non c'è lavoro servile nella fabbrica. Nella fabbrica c'è solo lavoro salariato, c'è il salario. E il salario? E il salario? Chi conosce il salario è come il prezzo. È una delle cose più complicate da capire il salario. Il salario è determinato da conflitti costanti tra patronato e classe operaia, che è un conflitto costante sul salario, ma è salario. In condizioni di schiavitù non esiste salario. Per questo una delle cose più belle che ho appreso nella mia vita precedente è quello di leggere una busta paga. Chi sa leggere una busta paga? Guardate, una delle cose più difficili da fare, se voi magari adesso se doveste lavorare in una società, una fabbrica, la mia è anche una fabbrica, apprendere come si legge una busta paga è una cosa complicatissima, che in pochi devono fare, pochissimo. E la busta paga è questo, è una sedimentazione di tanti conflitti trasformati in salario, in tante voci del salario. Questo è il salario, che esprime una grande dinamica basata sul lavoro. E gli operai sono sempre stati liberi, la vega tecnica che loro avevano erano solo quelle del lavoro salariato. Non del lavoro sentire, spezzando le catene del lavoro salariato si libera l'intera unità, questa è la canzone Marx. Però, cioè, si dice che il capitalismo non è schiavismo. Si dice, cioè, si dice, dice, non dico, no, dice capitalismo, è, capitalismo non è schiavismo, cioè non è schiavismo. Però come si spiega che i paesi emergenti, l'utilizzo di manovalanza minorile appartiene al suo occidente, nell'Ottocento dentro le fabbriche occidentali europee chi lavoravano erano bambini e donne, poveri uomini, ma erano principalmente il lavoro salariato era fatto da bambini, io non spero di sapere queste cose, bambini e donne. Il lavoro minorile appartiene alla storia dell'Occidente del capitalismo, non è che sono inventati in Cina o dove appartiene a, quindi ogni paese che cerca di affermarsi nell'accumulazione capitalistica, come si definisce, l'accumulazione capitale spesso ha il lavoro minorile, ma lavoro di donne non nel senso attuale, è bene che adesso le donne lavorino ovviamente, solo che allora le donne lavoravano 14 ore al giorno e lavoravano anche stando in Cina. c'era uno spazio spaziale, non c'erano dei diritti di questo tipo, no? Per cui ci sono delle pagine straordinarie, grandi scrittori, Dickens, per esempio, molto appunti, che raccontano com'è la questione di lavoro. Ora, in alcuni paesi attuali si fanno quello che noi già abbiamo fatto, quindi non è che si inventa una cosa nuova. E anche lì, quando ci sono dei bambini che lavorano in quel modo, è un lavoro capitalistico, non è un lavoro di schiavitù. Chi usa il termine di schiavitù usa una metafora. Io non sono d'accordo, perché è molto più forte il concetto di salariato, di lavoro salariato, che il concetto di schiavitù. Quando l'operaio ha scelta per andare al lavoro, è disoccupato, ma la scelta di lavorare o non lavorare è determinata da un altro tipo di conflitto. Ma l'operaio può scegliere di non andare a lavorare, lo schiavo no. La Costituzione? Costituzione? Costituzione. No, la Costituzione è un'altra cosa. Allora, la Costituzione... No, la Costituzione non è un conflitto. No, la Costituzione è... Dipende dove volete collocare adesso la prostituzione, perché di forme di prostituzione ci sono state tante in tanti contesti differenti. Se tu vuoi dire adesso a Roma, Italia, non credo. Le donne che si prostituiscono sono state anche analizzate con i soldi. Loro offrono sul mercato la merce sesso del loro merce buono. In questo senso possono essere anche identificati, io non sono d'accordo, come lavoratrici salariate della prostituzione. Io non sono d'accordo su questo. Non sono d'accordo né per considerare schiavo, perché non sono schiavo del sesso, se no come metafora. Anzi, non sono schiavo, loro sono... Non hanno la libertà? Guarda, questa è una cosa complicata. Questa non è una cosa semplice sul concetto di libertà. Certo, molte persone non sono autonome nella loro scelta di vita, sia a livello della Costituzione, ma anche a livello della monogamia, o a livello del vero, o a livello di avere, come si dice, una volta divorziare. Adesso è possibile divorziare in Italia, prima non era possibile divorziare. Quindi queste coazioni appartengono a tutta la storia nostra dell'Occidente. E il concetto di libertà, io penso su questo sono d'accordo, è inadempiuto. Non è che il concetto di libertà è realizzato. Non so se siete d'accordo su questo. Il concetto di libertà è un concetto progressivo, nel senso processuale, e attualmente è realizzato in modo molto parziale. Certo, io sono d'accordo, la questione della costruzione però è legato alla questione di un desiderio che gli uomini molto spesso non riescono a risolverlo all'interno del loro rapporto familiare. Allora implichiamo qui qualcosa di altro, e tra l'altro questo qualcosa di altro è anche il parlamentarismo. Chi ha visto le ragazze che si prostituiscono nella nipotina, avevano tutta una serie di codici, tutti precisi. Adesso non c'hanno più, perché hanno problemi che si mettono in cesse romane. Però diciamo, la costruzione è qualcosa di più complesso che vedevo in termini di schiavitù. Che ci sia un processo di racket, è indubbio, ma è un processo di racket. In Germania, in alcuni paesi, sono lavoratrici salariate, nel senso che hanno una casa pubblica, hanno... Io però su questo vorrei fare una riflessione per una cosa. È giusto che una donna si costituisca dentro una casa che, per cui lo Stato guadagna le tasse, eccetera? Non so. No, in Germania è così, cioè, ma è così, è giusta, è libera la donna che è... ha una casa dove può esprimere il suo lavoro salariato, tra virgolette. Non so, io ero molto perplesso, quindi la questione della costruzione probabilmente, cioè non la posso dare la parola, però immette dentro una questione tra il rapporto tra sesso e denaro, che è una cosa un po' più complessa, diciamo, Freud forse ci potrebbe aiutare a capire questo processo. Però ti do magari in termini di strada, ma anche in termini di paralelismo, non soddisfano nessuna delle due cose. Questo però è legato a qualcosa che ha a che fare con la repressione sessuale. E la repressione sessuale a volte si trasforma, diciamo, si immerge. È come se la prostituta, cioè prima quello, come se la prostituta incarnasse una repressione sessuale trasformata in oggetto, e in quanto oggetto diventa merce. E la persona, l'uomo, chi ci va con la prostituta ha uno scambio, offre. E qual è il prezzo del sesso? Per questa è una cosa obbligatissima, una cosa di prezzo. Ma stiamo dentro qualche cosa di diverso. La prostituzione ha una specificità capitalistica, ma non rientra tutta dentro la produzione capitalistica, ha a che fare con qualcosa di repressione e serio che sta dentro e fuori il capitalismo. Sta dentro ma sta anche fuori. Quindi è merce e sta fuori la merce. Poi c'è prima la domanda là. Cioè tu sei d'accordo che la prostituta se non sia una radice come le altre e paghi le tasse? Abbiamo una posizione diversa. Io penso che la prostituta soffra sul problema. Ma vuole percepire un guadagno, non è perché? Sì, sì, certo che magari, certamente, sappiamo benissimo che vogliono guadagnare, poi ci sono tante forme di prostituzione. Alcune delle quali non sono legate a una donna che è prostituta, sono legate anche a donne, anche a uomini, o chi lo sa quant'è, che si vendono per comprarsi, insomma, è una storia purtroppo costruita. Io sono, però, la mia visione è che la prostituzione, così come è vissuta, perché attualmente in Occidente, ma anche in altre aree, esprime una ferita dentro quello che è desiderio, e che questa ferita diventa una cicatrice, e che questa cicatrice viene incorporata alla prostituta, come se dentro qualsiasi prostituta fosse questa cicatrice di un desiderio che non riesce a essere tale, e che diventa qualcosa di altro, e che diventa una pace di scambio. Ma anche se noi in Italia, di tantissimo, magari in passato, le cosiddette case chiuse, gli asili, non si chiamavano volgarmente, credo che si esprima un'ingiustizia profonda non solamente nei confronti delle donne che lo decidono, ma nei confronti degli esseri umani, anche degli uomini che vanno per così. Penso che lì ci sia un'ingiustizia profonda, una non soluzione, e che io vorrei che si risolvesse in un altro modo e non come prostituzione. Questo è quello che penso. La crisi del capitalismo che ha finanziaria attuale non è delle tasche, figuriamoci, è delle assicurazioni sul consumo, per cui non so quanti milioni di cittadini degli Stati Uniti hanno speso molto di più di quanto volevano. Si sono indebitate con le banche hanno ottenuto tutto questo, sono cresciute, a un certo punto sono diventate insolvibili. Però tutto questo non ha niente a che fare con la schiavitù. È un sistema, questo finanziario, intrecciato con quello produttivo, che ha prodotto, produce delle distorsioni che non hanno niente a che fare. Se poi diciamo, se ci sta un tizio che costringe, come l'altro giorno già col giornale, la moglie a vivere 50 anni rinchiusa in casa, certo possiamo dire che si è brutto, ma questo è un pazzo di binario, non è uno schiavista, è una condizione di follia patologica che un tizio decide di mettere per 50 anni la moglie dentro casa rinchiusa, che mi pare strano che anche questa poveraccia non abbia avuto nessuna opportunità. Insomma, sono fatti patologici marginali, non sono la condizione, non solo della condizione caratteristica o tanto caratteristica, ma non sono neanche il senso di quella che è pornografia, prostituzione e tutto quanto sta accadendo nel campo dello scambio tra sesso, comunicazione e l'altro. È un'altra cosa. Adesso però, se volete, una musica che affronta questa questione, non della prostituzione, ce la facciamo? È un po' più lunga di 5 minuti, però volevo presentare perché vi avevo parlato di Philip Glass e vi ho portato una musica un po' diversa da quella di Philip Glass normale. Allora, poi vi lasciamo le domande, va bene? Si chiama Changing Opinion, che è appunto il cambiare opinione. Questa musica verrà tutto fatto, c'è in una sala come questa qui un mormorio, tipo lo dovete sentire. Questo mormorio, questo è spiegato dal cantante in tanti modi, che la musica sentirete, la musica cosiddetta milanese di Philip Glass. Alla fine c'è un tentativo di spiegare questo silenzioso rumore che non è un libro, non è la preghiera, un mantra, chissà che cos'è. E ci tenevo a farla sentire, che a me è questo, no? Dove andare? Lei? pezzo fuori, addirittura.